Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. Oggi parliamo di un regista, sceneggiatore e produttore italiano. Nato a Milano nel 1951, è figlio di uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano. Esordisce nel 1971 come assistente dello zio, anch'egli regista, e collaborando alle sceneggiature per i film del padre. Nel 1982 dirige il suo primo film, Vado a vivere da solo, con Jerry Calà. Poi si allontana dalla commedia giovanile per virare decisamente verso un cinema d'impegno, con film come Mary per sempre, Il muro di gomma o il più recente Fort Apache. Ora è alle prese con un nuovo progetto, questa volta un film di genere. Lui è Marco Risi. Si dice sempre che bisognerebbe fare film di genere, che ci sono troppi film d'autore oppure troppe commedie. Questo qui invece è un film di genere, nel senso che poi quale genere? Sono tanti i generi. Questo qui è un thriller, un film noir con atmosfere nere in una Roma abbastanza cupa e viscida, dove si sente aria di potere che sta un po' perdendo colpi, e quindi ci sono questi personaggi che si muovono nell'ombra, molto forti, molto potenti, che tentano di resistere al cambiamento. E c'è un detective, un investigatore privato, che è una figura che mi è sempre piaciuta tantissimo negli altri film, nei film americani o in quelli francesi, e che volevo riuscire a trasformare, a portare anche sugli schermi in un film italiano, però con quel tipo di atmosfera lì, un po' alla... adesso non voglio fare il presuntuoso, insomma mi piacerebbe che questo film assomigliasse a quelle storie belle anche di Altman, quando ha fatto Il lungo addio, insomma a quelle atmosfere, o Chinatown... oggi, e, insomma, Raymond Chandler era uno dei miei scrittori preferiti, mi sono divertito moltissimo con tutti i suoi libri. Addio mia amata è un libro che ho letto due volte, quindi ecco, mi piaceva quell'atmosfera lì, un plot molto ben costruito, con quello che succede, fatti che accadono sempre ben concatenati, perché non mi piacciono quelli che fanno i furbi e dice vabbè, poi si capirà. No, si deve capire, alla fine deve tornare tutto. Se uno dice ma perché è successa quella cosa e non c'è una ragione, non va bene. Hitchcock in questo era maestro. Quindi è un film di genere. Poi penso che con certi film di genere, per esempio anche con la commedia, e abbiamo imparato molto negli anni passati, si possono dire molte cose anche sulla realtà del paese. Non credo che ci si fermi soltanto al fatto di fare un film di genere, così tanto per fare un film d'azione, ma si racconta anche il paese, perché questo film di genere si svolge a Roma, in Italia, e si respira quell'atmosfera lì. Un cast peraltro di attori molto amati. Eh sì, ci vuole anche, perché insomma, per il protagonista c'è Luca Argentero, che secondo me ha fatto veramente una bellissima interpretazione. È un personaggio bello, forte, romantico, anche duro, è uno di quelli che vorrebbero che le cose andassero in un certo modo, consapevole che molto spesso vanno in un altro modo per interessi, ma lui è uno abbastanza d'un pezzo e ci tiene alla sua professione e la vuole fare bene. È bello, è bravo, ha uno sfregio a un certo punto del film verso la metà, che si porta avanti fino alla fine, perché non mi piacciono quei film dove ci sono le scazzottate, ci si fa male da morire e poi il giorno dopo nessuno c'ha un segno in faccia. No, qui c'è proprio una cosa abbastanza forte e violenta, una lotta molto dura con tre personaggi che gli vanno in casa, lo braccano, e lui era nella doccia, quindi per le fan femminili, insomma, si può dire che lui affronterà questi tre tipi e non vede l'ora di massacrarli di botte, ma purtroppo non finirà proprio così, perché gli hanno preso anche il suo cane, che ha una zampa in meno, e guai chi si permette di toccare quel cagnolino con una zampa in meno. Per cui, uscendo dalla doccia, lui non sta certo lì a badare di mettersi un asciugamano o una cosa, ma fa questa lotta completamente ignudo, ed è molto fisico e molto forte, e insomma non so se qualcuno si fermerà su certi particolari, ma ecco, siccome abbiamo visto anche Fassbender, no, molto nudo in quel film, lui è il confronto, adesso non so se lo regge, però abbastanza. Mi sono sempre chiesto da dove vengano i lenzuoli che coprono i cadaveri. Chi li porta? I carabinieri, le ambulanze? oppure qualche mano gentile dalle case. E poi, che fine fanno? Li lavano, li rimettono a posto, li riutilizzano. Bello, eh? L'ho lasciato lo solo, 5 minuti fa. Leg, leg, leg la data. Che data c'è? Quella di oggi, no? Ma perché non l'ha firmato 20 giorni fa? Un mese fa, un anno fa? Non sono tutti ricercati, mo'. L'avrebbero fatta lo stesso, sta carneficina. Hanno ferito pure una bambina. Ma dove sta il sindaco? Dove stanno le autorità? Che si piangono questi? Che non lo sapevano pure prima? Attenti. Razza di paese è questo che arriviamo sempre dopo. Guarda, 243 bossole abbiamo contato. Questi fanno la guerra. Non prendiamo solo i morti. 8. Sono tanti? Sono pochi? Eh? Beh, ce ne sta uno pure laggiù. Stava preparando anche un altro film, stava pensando anche a un altro film prima di affrontare questo che potrebbe chiamarsi Ciacciaccia, un film sulla trattativa. Che ne è di quel progetto? Ma il progetto è per adesso è accantonato, anche perché siamo in continua evoluzione, forse bisognerà aspettare ancora qualche tempo e chissà che abbia ancora voglia di parlare di quella cosa lì. Certo, l'argomento è abbastanza interessante e stimolante, la trattativa, che lo Stato entri in contatto con la mafia e tratti con la mafia perché smetta di fare certe cose. La dice abbastanza lunga sullo stato di salute del nostro paese, quindi questo mi interessava abbastanza e io credo che ci sia stata questa trattativa, perché lì stavano esagerando i mafiosi e quindi alcuni politici, pensando naturalmente a fin di bene di bloccare quella stagione delle stragi e poi degli attentati, no, ai vari monumenti, hanno pensato che potesse essere giusto entrare a patti con quei personaggi lì, che è una cosa che però non si può neanche lontanamente immaginare. E invece, secondo me, un po' di quella roba lì c'è stata. India Hotel 870, riceve? India Hotel 870, riceve? C'era la guerra quella notte del 27 giugno 1980. L'aereo risulta disperso. Su quell'aereo c'erano 69 adulti e 12 bambini che tornavano a casa. Che 19? Quello dell'Italia, l'hanno tirato giù con un missile. Il missile, ma andiamo. Quelli che sapevano hanno deciso che i cittadini, la gente, noi, non dovevamo sapere. Gli ha buttato giù il 19 e voleva colpire un altro aereo. Chi c'era su quell'aereo? C'era Gheddafi. Quel missile era per Gheddafi. La notte dell'incidente nessun aereo o mezzo navale italiano si trovava nella zona. Hanno bruciato i documenti, hanno messo le registrazioni, cancellato i tracciati radar. Che cosa ha visto? Il 19 che cadeva. Nessun radar militare ha visto il 19 cadere. Perché chi sapeva è stato zitto? Perché chi poteva scoprire non si è mosso? Perché questa verità era così inconfessabile da richiedere il silenzio, l'omertà, l'occultamento delle prove? Io ho incontrato Alan Parker a Torino, abbiamo passato 2 sere insieme a chiacchierare al ristorante e lui mi ha detto che doveva fare un film, però aspettava la risposta di uno di questi attori che ti permettono di chiudere il film. Quindi non è facile. Ma io l'ho scelto io però, Luca Argentero, non è una imposizione della... Perché io sono riuscito a fare anche molti film senza attori, anche Fortapace, non è che avesse un nome così di grande richiamo. Libero di Rienzo lo conoscono in pochi. E Mary per sempre era un film praticamente senza attori, non è che la gente è andata al cinema perché c'era Michele Placido o Claudio Amendola, è andata al cinema perché era attratta da quel... Però sono passati già 20 anni da quella roba lì, oggi forse è più difficile, non lo so. Comunque aiuta, ecco, aiuta a avere un nome di un certo richiamo, questo è indubbio. Mario Libassi starà qui con voi. Di notte non dormirà nelle camerate ma in infermeria. E perché? C'ha le male di culo. Di giorno però, nel cortile, in classe e in tutte le altre situazioni collettive, è ferma intenzione dell'istituto promuovere la sua integrazione con tutti voi. La gazzara di ieri sera non sarà più tollerata. Mario dovrà essere trattato con rispetto, perché Mario è un bravo ragazzo. Io non mi chiamo Mario, mi chiamo Mary. Mary come Marilyn. E de cognome della pompena su caminchia. Dietro, fuori? Dai, fuori, vattene subito, via! è donna. Ma non vedo tu che fa la psicologa, è tutta donna, perché donna carente. Per favore, ti vuoi accomodare? Ha ragione, come dice lui. Ma no, Mario, non è vero, non è così. Ma che ne sa lei? Lo dice solo perché non ho le minne. Se per questo neanche lei ce le ha. Mi piacciono i bei ragazzi. Beh, che ci posso fare? Non so, è importante fare bei film, che poi parlino di sociale, di civile, di cose. Quello è relativo, perché poi ogni tanto ne esce qualcuno. Una volta negli anni 60, per esempio, si facevano anche i film civili, però erano spesso molto noiosi, anche brutti. Adesso si fanno molte commedie perché c'è stato un anno clamoroso di grandi successi di commedie, ma quest'anno per esempio sono andate molto peggio, quindi forse l'anno prossimo si faranno meno commedie. Se il mio film dovesse andare bene, magari si faranno più film di genere, si farà più film con trame più complesse, più thriller, più noir, più gialli. Ogni volta poi si parla sempre del fatto che il cinema italiano è in difficoltà, è in crisi, ma questo succede da tantissimi anni. La verità è che negli anni 60, e torniamo sempre a quello, si facevano 300 film l'anno e adesso se ne fanno a malapena 90, e di questi 90 magari ne escono 60, quindi non è semplice. C'era una qualità sempre molto alta, adesso non sempre è così. Qual è il più grande insegnamento che le ha lasciato suo padre? Forse potrei dire una cosa abbastanza importante, sì, seria. Cioè che le cose serie vanno trattate con leggerezza e le cose leggere vanno trattate con serietà. Questo secondo me è importantissimo. Lui non si è mai preso troppo sul serio, ha sempre pensato di essere un artigiano. Però insomma ancora adesso quando io rivedo tante cose sue mi accorgo della sua bravura e attenzione. Ecco, il fatto che avesse fatto medicina e che si stesse specializzando in psichiatria, quindi che capisse l'animo umano, sicuramente l'ha aiutato in questo mestiere. E per l'appuntamento di oggi è tutto, ci ritroviamo con Voci in Scena domani alla stessa ora.